Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oh, che allora, bello. Kappa, questo interregno tra Natale e Capodanno non è stato sempre un periodo un po' difficile da capire? Ma come, da capire in che senso? Sì, dai, ma che tipo di giorni sono questi? Ma cosa vuol dire? Sono martedì, mercoledì, no, vabbè, giovedì. Ma scusa, tu pensa quando eri al liceo, no? Cosa facevi il 28 dicembre? Ma che ne so? Come? Erano quei giorni che non sapevi mai deciderti se stare tutto il giorno a letto oppure andare a organizzare il Capodanno. Cioè io, ad esempio, avevo paura di sprecare tutti quei preziosi giorni di vacanza e alla fine li sprecavo davvero, insomma. Perché? Cosa facevi? Perché mi mettevo a dormire 2 ore di pomeriggio, poi però mi svegliavo, avevo l'ansia, dobbiamo organizzare il Capodanno, devo vedere gli amici, accendevo la TV, mangiavo mandarini arachidi fino all'ora di cena, poi la giornata era finita e andavo a dormire con la paranoia. Speriamo che finisca presto anche questa di giornata. Sì, allora, vabbè, però prima che finisca... Senza tutta quest'ansia, questa paranoia... No, però adesso te la faccio tornare, perché dobbiamo fare il nostro mestiere prima di far finire la giornata. Cioè i fustigatori di costumi. I cosa noi? Eh sì, ci tocca. Cosa sarebbe? I fustigatori di costumi? I fustigatori di costumi. Ma cos'è? A parte che sembrano scioglilingua, fustigatori di costumi. Questo è il nostro ruolo. Sembra una cosa tipo andare in spiaggia a far la predica alle ragazze in tanga. Ehi tu, bionda, sono un agente della fustigazione costumi. Il tuo tanga è troppo piccolo, ok? Dammi il tuo numero di cellulare che poi dobbiamo fare 2 chiacchiere, ok? Noi siamo fustigatori di costumi, nel senso che andiamo a puntare il dito con supponenza sui comportamenti altrui. Il ditino. E meno male che nessuno osserva i nostri comportamenti. Vabbè, ma tu stai zitto, no? Cosa inzighi? Inzigare. Oggi punteremo il nostro supponente ditino rosicchiato sulla tecnica del giurin-giurello. Che è una tecnica. Cos'è? È una tecnica sempre più abusata, niente meno che dal nostro bambino premier. Giurin-giurello, certo. Il nuovo cascato ha giurato di nuovo sui suoi figli che non ha alcun interesse economico con Putin. Giurin-giurello. Giurin-giurello, però dopo aver letto i cablogrammi di WikiLeaks, i figli del bambino premier avranno tutti incrociato le dita senza Ma l'ha già fatto altre volte, i suoi figli stanno tutti bene, quindi vuol dire che anche se giuri il falso non ti succede niente. Vabbè, finché lo giuri così, poi se lo giuri davanti a un giudice. Vabbè, è ma quale giuro? Lui ci va mica dal giudice, no? Lui davanti alla stampa. Giurin-giurello. Giurin-giurello, però è una formula che può andare bene in seconda media, massimo terza. Dal liceo in poi, se uno fa giurin-giurello, è già guardato con sospetto dai coetanei. A 70 e passa anni diventa quasi offensivo verso gli interlocutori. Vabbè, cosa ma dici? Mettiti nei suoi giurin giurello, lui si sente innocente, lo vuole dire con una certa enfasi. Cosa può fare? E cosa dice? Urlare giuro come sui un pazzo in un megafono. All'angolo della strada sale sul predellino. Adesso ha detto che i gradini deve stare attento perché ha una certa età. E comunque cosa deve fare? Se no, salire su una ciminiera e non scendere finché non gli danno ragione. Lui fa la cosa più umana che c'è, giura sui suoi figli. Non giura in giurello. E la parola di un gentleman non può essere messa in dubbio. Questo è molto divertente. Allora, siamo all'asilo, la fabbrica dei bambini, la fabbrica del futuro. Sì. Quindi non possiamo ignorare lo scontro generazionale che c'è adesso in atto nel paese. No, non possiamo. Studenti che manifestano, poliziotti che reagiscono, vetrine spaccate, insulti, disagio sociale. Scusa, la bambina Gelmini ci rimane male. Lei fa sempre tutto bene, ordinato. Sul testo della riforma c'erano anche le cornicette fatte tutte a mano, bene, ma ordinate. Infatti, guarda che lei però infatti non ci ha colpa. Non è colpa sua, è che la riforma gliel'ha dettata il bambino Tremonti. Quindi adesso lei pensa, ma come? Mi hanno detto che andava tutto bene, che era tutta giusta, l'hanno corretta. Poverina, la confondono, adesso è confusa. Ma il fatto è che non sono solo gli studenti a parlare male della bambina Gelmini come ministra, Anche il sindaco di Salemi, il bambino Sgarbi, ha le idee chiare in proposito. Vero, bambino Sgarbi? Ma Gelmini non è un ministro dell'istruzione, è un buon ministro della funzione pubblica. Le voglio, Geminello Alvi! Sai chi è Geminello Alvi? Sì che lo so. Lo conosci o no? Gli hanno anche bruciato la casa. Sai chi è? Sì. Geminello Alvi è un intellettuale di centrodestra intelligentissimo. E sarebbe un ottimo ministro! E tu sei un pirla, questo sei. E tu sei un pirla. Vabbè, ma sempre così ma finisce. Ma tu inzighi, smettila di inzigare. Perché non ci parli tu qualche volta col bambino Sgarbi? Sempre pirla. Vabbè, nel dibattito sulle proteste studentesche è entrato a gamba tesa il bambino La Russa. Il papà di Geronimo. Appunto, a proposito di infantilismo. Cosa? Chiamare il figlio Geronimo, diciamo spirito che... guerriero, sì, però a parte che Geronimo l'indiano non era mica fascista, Io non mi sono mai arrabbiato quando uno mi chiama fascista, visto che non mi sono arrabbiato. Perché sono in buona compagnia. Montanelli era fascista. Ma certo. Quale Montanelli? Tu sei la russa, mica Montanelli. Vabbè, ma il copyright sul nome non ce l'ha mica nessuno. Ricordati, scusa, che noi abbiamo un amico in comune che si chiama Adolfo e non è mai stato un problema. Beh, insomma, ogni volta che telefono dice ciao, sono Adolfo, vabbè, un po' mi viene la pelle d'oca. Mica dice Guten Tag, hier Adolf. E comunque il padre di Geronimo, Ignazio, si è reso protagonista di uno show in TV con uno studente e ha applicato la tecnica del gridare più forte. Il premier fa giurin-giurello e la risolve. La russa si mette a urlare e pure lui la risolve. Vabbè, ma così. È quello che dice di fare Machiavelli nel Principe. Eh beh, certo. Un famoso passo che in italiano moderno è così. Se sei in difficoltà dialettica con un oppositore che ha ragione, dagli del vigliacco e la vincerai. Vigliacchi! Anno nuovo, vita nuova, si dice che è così. Se non sarà così però per il PD, perché è sempre alle prese con le sue due anime in conflitto, quella di sinistra, quella di centro. Rago, quando cominci con ste pippe sul PD mi viene subito la biocca. Ma come va bene? Vergogna! Vergogna! Vergogna! Bambino Bersani, stavolta guarda, do quasi ragione a Kappa. Perché tu sei sempre lì pronto a giudicare gli altri, ma poi le primarie non le vuoi fare perché va a finire che le perdi. Poi non vuoi deciderti con chi allearti. Vendolo a Casini. Vado con questo, vado con quello. È normale, fa parte del gioco, no? Ma quale gioco? Il gioco dell'asino di Buridana. Noi dobbiamo sapere quali sono le coalizioni che da qui a qualche settimana dovranno presentarsi e presentare un programma e un candidato premier al paese. Noi rischiamo di stare col cerino in mano se aspettiamo che Bersani fa il gioco dell'asino di Buridan. Vado con questo e vado con questo. Allora, destra e poi sinistra. C'è il gioco dell'asino di Buridan. Fantastico. Sì, ma il centro? Ma che centro? Il centro non c'è, destra e sinistra. L'asino di Buridan. Vado con questo e vado con questo. Adesso sinistra. Destra, scusa. Vai, su. Ma io non capisco. L'asino. Ma quale asino? L'asino di Buridan. Vado con questa. È molto meglio fare l'asino di Buridano che non prendere una decisione subito, capito? Ci si diverte di più. L'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui e muore di fame. Cari bambini, l'asino di Buridano è una parabola di Giovanni Buridano, un filosofo francese del XIV secolo. Parla di un asino che ha due campi a disposizione per il pascolo e muore di fame perché non sa decidersi da quale campo iniziare. Ecco, questo lo diciamo giusto per evitare che lo spacciate per una cosa greca o latina o per l'asino di un vicino di casa di Di Pietro. Bravo, il tuo giro su Wikipedia l'hai fatto. Ma bravo, quale, Drago. Ma quale Wikipedia? Questa è cultura personale, questa è una trasmissione che fa cultura. Cosa? Hai detto cultura? Forza, ma sta zitto, fanno i tagli sulla cultura, non puoi dire cultura, devi dire un'altra cosa, un sinonimo. Perché se ci ascoltano poi ci tagliano. C'è la trasmissione che fa allegria. Come allegria? Ma fa simpatia, cosa fa? Anche intrattenimento, possiamo usare parole che possono piacere, non so, una trasmissione emozione, che fa emozione. Che fa tanta emozione, ma i tagli all'emozione non li fanno ancora. Domani e giurate sui vostri figli a chiedoasilo@radio24.it.